Focus Economia. Minuti, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta, un'altra puntata di Focus Economia. Tanti i temi di oggi, alcuni sono stati anticipati dal GR di pochi istanti fa, uno tra tutti il decreto agosto, provvedimento che conterrà nuove misure anticrisi, del governo per cercare di rilanciare il paese dopo il forte lockdown che ha messo a terra l'economia del nostro paese. Il decreto agosto, che sappiamo, si baserà su 25 miliardi di nuovo extra deficit approvati dal Parlamento, una bella fetta di questi 25 miliardi, perché parliamo di ben 13 miliardi, sono destinati al pacchetto lavoro. Sarà questo soprattutto a cui dedicheremo un focus nel nostro primo approfondimento. 13 miliardi per il pacchetto lavoro, due i temi fondamentali: la proroga della cassa integrazione fino a fine anno e poi il blocco dei licenziamenti. Su questo aspetto si sta dibattendo ancora all'interno della maggioranza, perché c'è chi spinge perché vi sia il blocco dei licenziamenti fino a fine anno a 360 gradi, chi invece vuole limitare il blocco alla fine del periodo di emergenza. Sappiamo che qualche settimana fa, anche meno, il governo ha esteso l'emergenza al 15 di ottobre. Si sta cercando di trovare un compromesso. Il punto di caduta potrebbe essere di estendere al fine anno il blocco dei licenziamenti a quelle aziende che hanno sempre attuato e utilizzato gli ammortizzatori. Questo potrebbe essere il punto di caduta per un compromesso nella maggioranza, su cui vanno in pressing i sindacati, che invece dicono o il blocco dei licenziamenti arriva a fine anno oppure siamo pronti allo sciopero. Il governo, dicono i segretari di CGIL, CISL e UIL, non si rendono conto di qual è lo stato di salute delle imprese e del mercato del lavoro. Un eventuale fine del blocco dei licenziamenti metterebbe ancora più in crisi un settore in profonda difficoltà. Insomma, abbiamo tantissimi elementi per dedicare il nostro primo approfondimento al decreto agosto, però non dovrebbe arrivare domani come inizialmente si era pensato. Oggi ci doveva essere un preconsiglio che poi alla fine è stato, come dicono gli esperti, sconvocato. Probabilmente si arriverà al varo del provvedimento nel prossimo fine settimana, provvedimento decreto di agosto, che dovrebbe avere anche una parte relativa al rilancio dei consumi, quindi il lato della domanda dovrebbe essere stimolato, ma soprattutto per quelle transazioni che avverranno attraverso la moneta elettronica, quindi anche per dare una tracciabilità ai consumi. Questo quindi il decreto di agosto. Altro momento di approfondimento sarà il tema infrastrutture, ovvero abbiamo parlato molto dell'inaugurazione del ponte di Genova, ieri i primi passaggi, oggi addirittura le prime code sul ponte, causa anche i tanti automobilisti che rallentano per fare le foto sul ponte. Quindi diciamo subito a chi ci sta ascoltando, cercate un attimino di spingere sempre nei limiti del consentito sull'acceleratore, perché se no si creano code, ma noi l'aspetto che ci interessa è quello che c'è dietro, ovvero le concessioni, perché è notizia di ieri. Atlantia, praticamente a cui fa riferimento Autostrade per l'Italia, ha deciso di chiudere lì il rapporto che vi doveva essere con Cassa Depositi e Prestiti, ha confermato l'uscita da Autostrade per l'Italia, ma Atlantia che cosa dice? O la venderemo direttamente sul mercato oppure sarà creata una società ad hoc per essere poi collocato. E questo sarà un altro dei nostri appuntamenti. approfondimenti. E poi ancora vediamo che anche le borse, soprattutto quelle internazionali, vivono oggi una giornata positiva sulla scia di quello che dovrebbe arrivare negli Stati Uniti come ulteriori aiuti all'economia messa in ginocchio dal coronavirus. Nel nostro piccolo invece in Italia si dibatte ancora delle norme sul distanziamento e questo sta creando un po' di preoccupazione nel settore dei trasporti, soprattutto in maniera indiretta nel settore aereo. È di oggi la notizia che ENAC punta il dito su Ryanair. Ryanair non rispetterebbe le norme di distanziamento. E quindi questi i nostri argomenti, uno sguardo rapido, dicevamo, ai mercati. Vediamo in questo momento l'Europa tutta in positivo, FTSE 100, Londra 0,92, Francoforte 0,48, Francia 0,71, Milano 0,57. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, Dow Jones 1,26, Nasdaq 0,46, quindi una borsa, mercati americani che stanno andando molto bene in questo momento. Lo spread, quindi il rapporto tra BTP e Bund, 154,8 punti, meno 0,38%, ed infine il rapporto tra euro e dollaro 1,189. Quindi questa la nostra anticipazione per quanto riguarda i mercati, la finanza. Direi di passare tranquillamente alle nostre notizie in breve. Solitamente iniziamo le nostre notizie in breve con l'oro e il petrolio. Oggi non facciamo eccezione, però ricordiamo che l'oro è a più 1,32, a 2045,14 dollari l'oncia, quindi l'oro continua nella sua crescita della quotazione, e cercheremo di capirne i perché nel nostro approfondimento dei mercati alle 17:30. Per quanto riguarda il petrolio, l'olio è ai massimi da 5 mesi, scambiato a 43,12 dollari al barile, più 3,41%. Per l'economia internazionale, a giugno 2020, mese di allentamento di alcune misure di contenimento del Covid, il commercio al dettaglio è aumentato del 5,7% nella zona euro e del 5,2% nell'Europa 27 rispetto al mese precedente. A maggio era rimbalzato rispettivamente del 20 e del 18, lo comunica Eurostat, segnalando che questo significa che i volumi del commercio al dettaglio in entrambe le zone sono tornati ai livelli di febbraio 2020, prima dell'inizio delle misure di contenimento. Insomma, questa mi sembra un'ottima notizia, sempre da Eurostat. Commercio, trasporti e arte però i settori più colpiti dalla crisi. Nel primo trimestre le attività che hanno sofferto di più sia in termini di ricavi che di occupazione sono state, quindi dicevamo, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, i trasporti, l'accoglienza e i servizi di ristorazione, oltre alle attività artistiche di intrattenimento e ricreative. Le uniche attività che hanno invece registrato un'espansione, pur perdendo valore, sono state la comunicazione, l'informazione, la sanità, la pubblica amministrazione. Abbiamo poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità con il suo direttore generale Ghebreyesus, che loda quanto fatto dall'Italia. Dice Ghebreyesus: l'Italia è da esempio per gli altri paesi nella sua azione anti-Covid. E veniamo all'Italia con i numeri più prettamente economici, i numeri che arrivano dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, che segnala un calo del PIL del 10,4% quest'anno ed un recupero del 5,6% nel 2021. Si innestano queste stime per il 2020 sulla eccezionale contrazione congiunturale del PIL nel secondo trimestre, seguita alla battuta d'arresto dei primi tre mesi. È abbastanza inevitabile il fatto che il debito pubblico cresca, viste anche queste importanti manovre che il governo è stato costretto a fare dall'inizio della pandemia, dato il quadro economico e considerati gli interventi comprensivi dello scostamento richiesto dal governo. Con la relazione al Parlamento di luglio i conti pubblici peggioreranno notevolmente nell'anno in corso per poi rientrare in parte nel 2021 e la stima congiunturale diffusa sempre dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Il rapporto tra il debito pubblico e il PIL dopo la stabilizzazione ottenuta nel 2019 dovrebbe superare il 160% nel 2020. Altri numeri importanti dall'Ufficio parlamentare di bilancio, un crollo degli investimenti, meno 15% nel 2020, poi il prossimo anno vi dovrebbe essere un parziale recupero con un più 8-9%, ed ancora rischi a ribasso sullo scenario di ripresa fra diverse incertezze. Il quadro di previsione formulato dall'UPB, che prevede un PIL al meno 10,4% quest'anno, sottende una ripresa graduale ma definitiva dell'attività economica, escludendo quindi l'eventualità di una seconda ondata di contagi che renda necessari nuovi provvedimenti restrittivi alla mobilità. Insomma, per tradurre queste indicazioni che arrivano dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che cosa viene detto? Viene detto che la contrazione del PIL raggiungerà le due cifre, ma questo sempre che non arrivi una seconda ondata che possa mettere in nuova crisi il sistema produttivo italiano, cosa che tutti noi non ci auguriamo. Vi sono alcuni paesi europei che segnalano questa minaccia. Ieri vi è stato in particolare il Belgio, secondo il quale in quel paese sarebbe in arrivo una seconda ondata di Covid. E dicevamo delle importanti ricadute delle norme sul distanziamento per quanto riguarda i trasporti, e lo abbiamo sentito anche nel GR delle 17, le parole del Ministro della Salute Speranza, che dice: la recente ordinanza non è legata solo alla vicenda dei treni ma al rispetto delle regole essenziali, e i termini dell'ordinanza verranno confermati nel prossimo provvedimento che approveremo. Da parte mia, dice Speranza, ogni scelta restrittiva è evidente che comporta dei costi e dei disagi, ma dobbiamo rispettare i tre principi fondamentali: uso delle mascherine, distanziamento di almeno un metro e lavaggio delle mani. Resta, come dicevamo ieri, la domanda, il perché questo distanziamento sia messo in dubbio da molti operatori del trasporto pubblico locale sui treni, e invece vi sia un via libera totale sugli aerei. È questa un po' una guerra tra gli operatori dei trasporti, ma questa è la fotografia che noi scattiamo in questo momento per chi si sta muovendo per le vacanze estive. Per quanto riguarda la scuola, anche questa è una notizia che abbiamo ascoltato nel GR delle 17. Il Presidente del Consiglio Conte dice: ora ripartiamo sulla scuola, garantisco io, mentre, e questa logicamente è uno slogan, non possiamo non avere fiducia nel Presidente del Consiglio, mentre la Ministra dell'Istruzione Azzolina va più nel concreto e dice: oltre 50.000 posti in più fra docenti e ATA, con una priorità per la scuola dell'infanzia e la primaria. È quanto prevede l'ordinanza firmata dalla Ministra, che ha incontrato questa mattina i rappresentanti delle regioni sulla ripresa di settembre e in particolare sul tema dell'organico aggiuntivo da dare alle scuole. E poi ancora l'Azzolina: ridurremo numero degli alunni per classe, le famose classi pollaio. Grazie a questo incremento di organico, dice l'Azzolina, potremo finalmente cominciare a superare quelle norme nate in epoca di tagli feroci alla scuola che hanno portato al sovraffollamento delle classi. Con il decreto rilancio abbiamo infatti previsto la possibilità di derogare al numero di alunni per classe per ridurlo progressivamente. Un cammino che dovremo poi proseguire anche oltre l'emergenza. Questo è l'impegno e l'auspicio della Ministra dell'Istruzione Azzolina. Dalla scuola passiamo all'università, PC gratuiti e un pacchetto importante di agevolazioni per tasse e iscrizioni pensato per venire incontro agli studenti e alle loro famiglie gravate dalle difficoltà economiche del momento sono alcune delle novità che l'Università Roma 3 ha messo in campo per settembre, confermandosi l'Ateneo Capitolino che vanta il sistema di contribuzione che più difende il reddito delle famiglie. Per il prossimo anno accademico, Roma 3 ha ulteriormente esteso la soglia della no tax area con esonero totale delle tasse per studenti con ISEE fino a 20.500 euro e a cascata con esonero parziale previsto fino a 30.000 euro. Inoltre 500 computer portatili messi a disposizione dall'Ateneo che saranno assegnati sempre sulla base dell'indicatore ISEE. E ci avviamo velocemente verso il nostro primo approfondimento che dicevamo essere il decreto di agosto, soprattutto sul tema degli interventi in favore del lavoro. Dicevamo allora, decreto di agosto, per fare il punto, è sconvocato il preconsiglio, quindi la maggioranza rallenta un attimino sulla definizione del provvedimento. Un provvedimento che dovrebbe essere di 91 articoli, con tanti argomenti dal lavoro al fisco alla scuola, 1 miliardo per la ripartenza della scuola, straordinari sanità per taglio liste di attesa, la proroga della moratoria dei mutui delle PMI al 31 gennaio, il rinvio del 50% delle tasse sospese, 1,5 miliardi per la ricapitalizzazione delle società pubbliche e poi ancora, visto il boom degli incentivi per le auto, dovrebbero arrivare altri 500 milioni proprio per questo settore. Poi ancora, per favorire il settore del turismo, stop alla seconda rata dell'IMU per alberghi, spiagge e fiere. E poi ancora, la New Coopera Italia sarà costituita con 10 milioni di capitale sociale e ai soli fini dell'elaborazione del piano industriale che andrà redatto in 30 giorni e inviata a Bruxelles per il via libera e alle competenti commissioni parlamentari. Lo prevede la bozza del decreto di agosto che modifica le norme per l'ex compagnia di bandiera introdotte a marzo con il decreto Cura Italia. Questo il nostro menu di oggi della nostra puntata di Focus Economia. Queste le nostre notizie in breve. Vi ricordo per SMS e WhatsApp il 349-238-6666, il nostro sito di Radio 24, le nostre dirette sui social. Direi di passare al nostro primo approfondimento. Prima ringrazio, come sempre, in regia Valeria Bernardi, in assistenza al programma Maria Sole Lisciandro, e direi di passare al nostro primo approfondimento. Il capitolo lavoro all'interno del decreto di agosto, che vale 25 miliardi in termini di scostamento, avrà due esigenze: arginare la perdita di posti di lavoro legata all'epidemia da coronavirus, tamponando le conseguenze economiche della crisi per imprese e lavoratori, e incentivare nuove assunzioni e sostenere la riqualificazione del personale. Sono due esigenze che potranno essere soddisfatte. Lo chiediamo subito al nostro collega del Sole 24 Ore, Giorgio Pogliotti, che ci aiuterà ad approfondire questo tema. Buon pomeriggio, Giorgio. Buon pomeriggio a voi. Beh, innanzitutto bisogna attendere di conoscere poi il testo finale, perché diciamo ci sono appunto ancora delle azioni all'interno della maggioranza, soprattutto sul tema dei licenziamenti. Quindi diciamo ci sono diverse bozze del decreto legge che girano e ci sono anche posizioni ancora differenti sul tema, e quindi si attende ancora diciamo di vedere poi quella che sarà la versione definitiva. E sicuramente sul piano diciamo degli incentivi appunto per il lavoro ci sono due novità interessanti. Ci sono appunto gli incentivi per le imprese che non ricorrono alla cassa integrazione Covid, quella pagata dallo Stato, che potranno avere sostanzialmente, se hanno utilizzato la cassa Covid a maggio e giugno ma non intendono usarla, quindi richiamano sostanzialmente a lavorare i propri dipendenti, potranno godere di un esonero contributivo fino a 8.060 euro annui per 4 mesi. Questo esonero va entro diciamo il 31 dicembre, va utilizzato. La novità è che però vengono escluse poi da questo esonero, diciamo, da questo vantaggio, questo incentivo, le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo semestre. Poi c'è una seconda norma che riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni in contratti a termine. In questo caso, quindi, il datore di lavoro che assume tempo indeterminato e stabilizza fino al 31 dicembre avrà un esonero contributivo fino a un massimo di 6 mesi, anche qui entro il limite di 8.060 euro annui. Anche qui una novità importante nell'ultima bozza: scompare il riferimento che invece c'era prima alla condizione di produrre un saldo occupazionale netto positivo con queste assunzioni. Questo sul versante, diciamo, degli incentivi alle imprese. C'è tutto il capitolo poi della cassa integrazione, che è sicuramente diciamo, il core, diciamo, del pacchetto di misure sul lavoro, cioè la proroga di 18, ulteriori 18 settimane dal 13 luglio al 31, dal 13 luglio al 31 dicembre per le imprese, per della cassa integrazione Covid. Le prime 9 settimane saranno gratuite per tutte le imprese, invece per le seconde 9 settimane si introduce un principio nuovo, che è quello appunto che dovranno pagarle le imprese che hanno avuto il primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre del 2019 hanno avuto appunto un calo di fatturato fino al 20%. Quindi sostanzialmente se io nel primo semestre del 2020 ho avuto fatturato positivo o comunque non ho avuto cali, dovrò pagare il 18%. E se invece ho avuto un calo fino al 20%, dovrò pagare il 9%. Tutte le altre imprese continueranno ad avere la cassa integrazione gratuita, la cassa integrazione Covid. Ecco Giorgio, sul tema della cassa integrazione mi sembra che non ci siano dissidi all'interno della maggioranza. Questa è una misura che dovrebbe al 99% essere presente nel provvedimento. Ma in realtà c'è chi ha fatto notare, per esempio il sottosegretario al lavoro Francesca Puglisi, proprio sulle colonne del Sole, ha fatto notare come il riferimento al fatturato, al solo fatturato, può in qualche maniera produrre dei grossi problemi per tutta una serie di imprese di settori che sono fortemente, diciamo, in difficoltà e che magari hanno avuto un aumento di fatturato nel primo semestre solo perché avevano dei magazzini degli ordini precedenti, certo, dei magazzini da evadere, e poi adesso invece sono in difficoltà. Allora, per esempio, la sottosegretaria Puglisi era di fare riferimento ai codici Ateco, cioè quelle attività che sono considerate ancora, diciamo, in grande difficoltà. Faccio un esempio il turismo, faccio un esempio tutto il mondo dello spettacolo, cioè ci sono una serie di settori che ancora sono in grande difficoltà e che quindi queste aziende poi potrebbero trovarsi non avere i soldi, la liquidità per far fronte ad appunto alla cassa integrazione. Ecco, quindi questo è un altro aspetto che potrebbe poi qui, diciamo, quando verrà presentato il testo definitivo, tu dici che potrebbe essere soggetto a dei cambiamenti. Comunque le imprese anche hanno sollevato diverse criticità su questa impostazione. Quindi poi vabbè, c'è il tema più grosso, comunque il tema che ha diviso la maggioranza e che divide anche poi le parti sociali, è il tema degli licenziamenti. Ecco Giorgio, ti blocco, perché prima restiamo un attimino sulla cassa integrazione, perché ci andiamo ad ascoltare il vice ministro all'economia Misiani, tanto sono 15 secondi, sentiamo cosa dice sulla cassa integrazione. Al lavoro per un nuovo provvedimento a sostegno delle famiglie e delle imprese italiane che vogliamo varare nei prossimi giorni. La priorità per il Partito Democratico è rifinanziare la cassa integrazione e incentivare le assunzioni, aiutare la scuola, gli enti locali e i settori più colpiti dalla crisi. Logicamente quelle del viceministro Misiani sono delle considerazioni più che giuste in questa esposte così in 15 secondi, logicamente danno più l'idea di essere un po' più uno spot da parte della sua forza politica, ma non c'è nulla di male. Nel frattempo, arrivata questa notizia, il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri considera soddisfacente il risultato del bando europeo sui banchi, parliamo di scuola monoposto, se ne è parlato tanto, in vista della riapertura dell'anno scolastico in sicurezza. Sono state presentate 14 offerte e oltre alle imprese italiane, tra i proponenti vi sono anche aziende estere. La commissione giudicatrice si è subito in insediata e messa al lavoro per poter aggiudicare la gara entro il 12 di agosto come previsto dal bando. Quindi aggiudicamento della gara entro il 12 di agosto, speriamo che poi ci siano i tempi per produrre questi famosi banchi monoposto. Con Giorgio Pogliotti stavamo per affrontare l'argomento forse tra i più importanti di oggi, che è quello del tema del blocco dei licenziamenti che agita la maggioranza. Prima però di affrontarlo ci fermiamo. Focus Economia. Ora insieme Focus Economia, in studio Vincenzo Miglietta, è collegato con lui il collega del Sole 24 Ore Giorgio Pogliotti, che ringrazio per la sua disponibilità. Giorgio, stavamo parlando del decreto di agosto, del blocco dei licenziamenti, c'è un po' di polemica, braccio di ferro all'interno della maggioranza per quanto dovrà essere esteso questo blocco dei licenziamenti. Al momento si penserebbe al 15 di ottobre, quando dovrebbe terminare lo stato di emergenza legato al Covid, ma sindacati e parte della maggioranza spinge per estenderlo fino a fine anno. Parlavamo dei sindacati che minacciano in caso contrario lo sciopero. Sentiamo allora subito il segretario della CGIL Landini. È inaccettabile il blocco dei licenziamenti, l'abbiamo chiesto, ne abbiamo discusso col ministro del lavoro, deve andare alla fine dell'anno. Altre soluzioni non sono assolutamente accettabili, e insieme a CISL e UIL valuteremo che cosa fare. Credo che sia utile che il governo si renda conto che questo è il momento della coesione sociale. Non può stare assieme il fatto di dare sgravi contributivi, non fare pagare tasse e dare la libertà di licenziare. E credo che anche tra le imprese, in realtà la maggioranza degli imprenditori sa perfettamente che oggi è il momento di investire sul lavoro e sulle persone che lavorano nelle aziende. E quindi io mi auguro che nella giornata di oggi il governo confermi ciò che a noi è stato detto ieri nell'incontro, e cioè che c'è il blocco fino alla fine dell'anno, che c'è il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e che c'è la disponibilità ad aprire una trattativa, un confronto per una vera riforma degli ammortizzatori sociali e soprattutto per far partire gli investimenti e creare il lavoro di cui abbiamo bisogno, combattendo la precarietà, che è il vero male della nostra era. E queste dunque le parole del segretario della CGIL Landini. Giorgio Pogliotti, collega del Sole 24 Ore. Beh, qualcuno ai sindacati ha detto che il blocco sarebbe stato prorogato fino a fine anno. Poi cosa può essere successo? No, ieri è vero, c'è stato un incontro tra il ministro Catalfo in videoconferenza con appunto CGIL, con il segretario di CGIL CISL UIL, e Catalfo, in effetti il ministro, aveva predisposto un testo che prevede il blocco dei licenziamenti fino al 31 dicembre. Quindi su questo lei ha detto, però appunto non era presente all'incontro il Ministero dell'Economia, e c'è un problema di dubbia costituzionalità dell'estensione, diciamo, del blocco di licenziamenti già iniziato il 17 marzo, ricordiamo, fino al 31 dicembre, quindi oltre, diciamo, lo stato d'emergenza che si conclude il 15 ottobre. Di qui la scelta. L'ultima versione che ho visto del decreto legge, quindi l'ultima bozza, diciamo, del decreto legge, di prevedere sostanzialmente, la nuova formulazione prevederebbe il blocco dei licenziamenti prorogato effettivamente fino al 31 dicembre, sì. Ma a partire dal 15 ottobre sono esclusi quei datori di lavoro che non utilizzano gli ammortizzatori sociali per l'emergenza Covid-19. Quindi sostanzialmente l'esclusione di quelle imprese che non ricorrono all'ammortizzatore sociale per cassa Covid. Bisogna vedere poi quanto questa formulazione reggerà, perché appunto c'è un braccio di ferro all'interno, come dicevi te, appunto, del governo e della maggioranza. Ci sono opinioni diverse tra il Ministero dell'Economia e il Ministero del Lavoro e tra partiti, cioè il Movimento 5 Stelle da un lato, una parte del PD, l'EU e i sindacati, CGIL e CISL UIL, da una parte che vogliono l'estensione del blocco che, se ricordiamo, scadrebbe il prossimo 17 agosto, lo vorrebbero appunto fino al 31 dicembre, e dall'altra invece una parte del PD, Italia Viva e il Ministero dell'Economia sul fronte, diciamo, sociale, le imprese, le associazioni datoriali più rappresentative, che appunto dicono invece sono contrarie a questa estensione del blocco fino al 31 dicembre. Certo, Giorgio, ma per capire, da parte delle imprese, secondo te, l'eventuale licenziamento sarebbe comunque, rientrerebbe tra le tante leve per poter avere un minimo di flessibilità di fronte ad un mercato incerto, ordinativi incerti, e quindi potersi giustamente organizzare anche per la propria produzione, o rientrano anche altre dinamiche? In quanto, mi spiego meglio, gli ammortizzatori sociali dovrebbero comunque dare una grossa mano in questo momento al settore produttivo. Tenete conto appunto che gli ammortizzatori sociali appunto dalle seconde 9 settimane diventano onerosi per le imprese. E una scelta appunto che è stata fatta legittima da parte del governo, certo. Quindi diciamo il cortocircuito si potrebbe innescare per alcune imprese che hanno problemi di liquidità tra l'onerosità dell'ammortizzatore sociale e non poter licenziare. Non poter licenziare. Certo. Teniamo conto che ci aspetta un autunno molto difficile, e a parte qualche settore a cui diciamo penso alla farmaceutica, penso magari all'alimentare, in cui diciamo le cose comunque, ma la gran parte dei settori sono ancora in grossissima difficoltà, e ci sono dei segnali di ripartenza, ma insomma che molti settori invece sono ancora, e comunque sono segnali di ripartenza, ancora non c'è una piena produzione, e ci vorrà del tempo prima di tornare ai livelli appunto pre-emergenza Covid. Allora ecco, la preoccupazione appunto è quella di innescare un meccanismo che potrebbe portare poi molte imprese a dichiarare il fallimento, perché non hanno più i soldi. Certo. Da un lato, ecco. E d'altra parte è chiaro, i sindacati legittimamente fanno il loro mestiere, e quindi appunto avanzando la loro richiesta. Bisogna vedere appunto che capacità poi di avrà il governo di trovare una sintesi tra posizioni che sono ancora... Giorgio, siamo in chiusura di questo blocco. Ecco, la sintesi, secondo te, che tempi dovremo attendere? Ci potrebbe arrivare il provvedimento nel fine settimana? Allora, abbiamo detto che appunto il Consiglio dei... Oggi era convocato il pre-Consiglio dei Ministri ed è saltato proprio per queste tensioni. Quindi domani probabilmente non ce la faranno a presentare un nuovo testo. È probabile che venerdì si parla appunto di una nuova convocazione del Consiglio dei Ministri, e magari appunto venerdì dovrebbe appunto dare, anche perché tenete conto che poi con la chiusura delle Camere per la pausa estiva, il decreto legge, una volta poi approvato al Consiglio dei Ministri, va convertito in legge, e quindi bisogna calcolare anche la chiusura dei tempi parlamentari, per la conversione. Diciamo entro venerdì massimo lunedì lo devono fare. Benissimo, grazie. Grazie Giorgio Pogliotti, collega del Sole 24 Ore, per questi approfondimenti sul decreto di agosto, e noi andiamo ad affrontare la giornata dei mercati. Mercati che dicevamo, almeno quelli europei, ma vedo in questo momento anche Wall Street in segno positivo. Oggi sono tutti con segno più, quindi andiamo ad analizzare cos'è che ha spinto i mercati a questa performance positiva, almeno fino a questo momento, con il collega di Radio Cor, Ceo Condina. Buon pomeriggio, Ceo. Ciao, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Beh, diciamo che i mercati europei hanno viaggiato bene in mattinata, hanno consolidato i guadagni nel pomeriggio. Tu chiedevi il motivo di questo rialzo, direi che ancora una volta è Wall Street, dove il Dow Jones ha superato oggi di slancio quota 27.000 punti, in attesa di due poi eventi chiave delle fine settimana. Uno è il dato dell'occupazione molto atteso di venerdì, l'altro, come appunto hanno promesso i massimi esponenti della politica americana, l'approvazione del nuovo pacchetto di aiuti post-Covid da parte del governo americano. Insomma, due eventi che i mercati aspettano con ansia, ma nel frattempo Wall Street sale e porta con sé tutti i listini, tutti i principali listini continentali. Parigi ha chiuso in rialzo dello 0,9%, Francoforte ha recuperato lo 0,4%, Milano ha chiuso con un buon più 0,6%, spinto soprattutto dai titoli bancari e da quelli petroliferi. Ecco, quindi oggi rispetto agli scorsi giorni ci sono stati settori che hanno trainato, non vi sono state titoli, azioni singole che si sono messe in particolarmente in luce, ecco, dicevi quindi i titoli bancari in evidenza. Sì, diciamo soprattutto diciamo, sia i bancari sia soprattutto i petroliferi. Oggi le quotazioni del greggio hanno subito un'impennata, anche qui diciamo l'impulso è arrivato da oltreoceano, dove le scorte americane sono calate più del previsto, cosa che lascia intuire dunque che sui mercati sia aumentata la richiesta di petrolio. Certo. Il petrolio, anche perché nelle ultime sedute aveva un po', diciamo, sofferto dal punto di vista delle quotazioni, oggi adesso in questo momento recupera in America quasi il 4% con il WTI oltre i $43 al barile, quindi molti titoli petroliferi di Piazza Affari che avevano sofferto molto nelle ultime sedute ne hanno approfittato per recuperare terreno. Due esempi su tutti: Saipem più 6%, Eni più 3%, ma bene anche Tenaris che ha fatto più 4,5%. Per quanto riguarda i bancari, citerei Biper Banca più 5,8%, Biper che rientra nel listino principale al posto di UBI Banca, che di fatto verrà assorbita da Intesa San Paolo. Bene anche la stessa UBI Banca, Intesa San Paolo, che recupera il 2,2%. Ecco, Ceo, invece, sul braccio di ferro per le concessioni autostradali, Atlantia oggi ne ha avuto un beneficio o no, dopo il suo annuncio di voler di fatto rompere con Cassa Depositi e Prestiti? Ma diciamo che alla fine si è chiuso quasi con nulla di fatto la seduta. Nella mattinata Atlantia aveva subito delle perdite abbastanza pesanti, era anche addirittura stata sospesa per eccesso di volatilità e cedeva oltre il 4%, poi via via ha recuperato nel pomeriggio. È chiaro che da una parte il mercato è preoccupato per il fatto che diciamo l'intesirsi della trattativa con Cassa Depositi e Prestiti, che potrebbe anche, sembra, interrompersi definitivamente, possa poi portare anche delle tensioni nuove, tensioni col governo. Dall'altra, se Atlantia diciamo esperirà altre strade per la valorizzazione di Aspi, per l'uscita da Aspi, certo, e poi queste strade comportano la valorizzazione di Aspi sul mercato, è chiaro che aumenta l'introito per Atlantia e dunque anche per i suoi soci, in teoria. Ecco, Ceo, non è che dedichiamo spessissimo un approfondimento alle materie prime, nel senso che il petrolio soprattutto molte volte diventa argomento di Focus Economia. In questo caso invece ti volevo chiedere come mai l'oro sta beneficiando di quest'onda lunga che lo ha portato a rompere l'asticella dei $2,000 l'oncia. Eh sì, oggi ha toccato un nuovi record, è arrivato addirittura a $2,050. Beh, direi che ci sono un po' di fattori tecnici, un po' di fattori legati a quella che è la congiuntura internazionale. Le borse salgono, ma comunque è sulla congiuntura, sulla tenuta di questa possibile ripresa nel terzo trimestre. Dopo il dramma del secondo trimestre, sì, ci sono ancora molte incognite, le incognite di una seconda ondata di Covid, e dunque ci si concentra su quello che è un bene rifugio come l'oro. In più ci sono anche le valutazioni del dollaro che continuano a scendere e come sappiamo il prezzo dell'oro espresso in dollari, penso che oggi l'euro è arrivato a un soffio da $1,19, sì. Quindi sono anche altri fattori tecnici che portano appunto a questa impennata del metallo giallo. Vediamo insomma dove arriverà. Certo, entrare su questi livelli è comunque Non è da tutti. Non è per tutti, certo. Grazie a Ceo Condina, grazie per questi tuoi approfondimenti. Ceo Condina di Radio Core, noi ci fermiamo. Focus Economia. E rientriamo alle 17:48 di fatto per l'ultima parte di Focus Economia. Abbiamo quindi 10 minuti abbondanti per affrontare un tema, quello delle infrastrutture, ma soprattutto delle concessioni autostradali, che interessa a molti. Ci aiuta a capirne di più la collega Laura Galvagni del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, Laura. Sì, buonasera. Buonasera a te. Laura, allora, il cambio di rotta, così scrivi oggi tu sul Sole 24 Ore di Atlantia, era abbastanza prevedibile o è stato un po' a sorpresa un po' tutti gli operatori ieri? Ma allora, definirlo prevedibile forse non è corretto, nel senso che era nell'ordine delle cose, considerate l'evoluzione degli ultimi giorni, è stata comunque una sorpresa. La trattativa con Cassa Depositi e Prestiti andava avanti da giorni, sembrava che non si riuscisse a superare alcuni ostacoli e quello che era nell'aria a inizio settimana si è concretizzato ieri con il Consiglio di amministrazione di Atlantia, che ha deliberato di cambiare strategia. Ha deliberato di cambiare strategia e lo ha fatto perché riteneva sostanzialmente non superabili gli ostacoli che si erano posti nella trattativa, le condizioni che CDP aveva messo sul tavolo per chiudere l'accordo. Dal punto di vista di Atlantia non erano recepibili. D'altro canto, Cassa Depositi e Prestiti, per tutelare se stessa, per tutelare il proprio investimento, non voleva fare un passo indietro rispetto a quelle che erano le sue richieste iniziali, quindi si era giunti a una situazione di stallo che rischiava di prolungare eccessivamente la tempistica per quanto riguardava l'uscita di Atlantia dal capitale di Autostrade. Così si è deciso di, con questa sorta di blitz, di cambiare rotta e quindi di fissare questi due nuovi percorsi che in teoria già a settembre potrebbero vedere la luce, e per portare sostanzialmente la holding fuori dal capitale di Autostrade. Certo, Laura, allora facendo un passo indietro, soprattutto per me che ne so sicuramente molto meno di te, allora andiamo con ordine. Quindi l'accordo del 14 luglio con il governo resta, ovvero Atlantia uscirà da Aspi, questo è un dato di fatto. Quella è stato, era però, la richiesta fondamentale del certo, governo, che certo. Atlantia uscisse dal capitale. Ma qual è stato secondo te il nodo insormontabile tra Atlantia e Cassa Depositi e Prestiti, tra i tanti? Allora, il vecchio schema prevedeva sostanzialmente che Cassa Depositi e Prestiti dovesse entrare in Autostrada attraverso un aumento di capitale, e attraverso, sì, quell'aumento di capitale di massimo 4 miliardi ritagliarsi una partecipazione di circa il 33%. Successivamente un 22% doveva essere venduta a investitori istituzionali e il terzo step era l'IPO della società. All'interno di questo contesto è stata avviata la trattativa tra Atlantia e CDP per l'ingresso della Cassa con quel 33%. Sì. Cassa chiedeva sostanzialmente una cosa cruciale più altre questioni legate proprio a una trattativa spiccia che si fa in questi casi. Il tassello fondamentale era la manleva. Cassa la spiega così, dice: io entro in una società Autostrade per l'Italia che, stante quello che è accaduto ad agosto di 2 anni fa, sì, ha un certo tipo di track record, e io non posso entrare assumendomi la responsabilità di quello che potrebbe accadere ancora sulla rete negli anni, nei prossimi anni, e quindi dice: voglio una manleva perché io non posso testare o non ho il tempo, il materiale per verificare certo, l'intero stato della rete, sì, quindi chiedo una manleva, manleva che normalmente nel subentro delle concessioni non viene data, nel senso che non fa parte proprio dei contratti di concessione la manleva. Quindi Atlantia lì ha alzato le mani e ha detto: no, noi la io non te la posso dare, certo, non te la posso dare. Un anno, 2 anni, 3 anni, non si era nemmeno arrivati a discutere, anche se si parla di 4 anni, quale fosse il tempo per cui doveva durare questa manleva. E quindi già su questo punto le due, CDP e Atlantia, si erano scontrate. Poi CDP aveva chiesto anche altre due cose, ossia quella di poter uscire dalla partita, quindi dalla trattativa, senza dover pagare delle penali nel caso in cui la due diligence non fosse andata a buon fine o non avesse trovato investitori istituzionali disposti ad acquistare il 22% di Autostrade. Certo, cioè Cassa Depositi e Prestiti non voleva rimanere con il cerino in mano dopo, logicamente, aver acquisito. Sì. Esattamente, dopo essere entrato col 33%, sì, se non avesse trovato questi investitori istituzionali il suo gradimento, pronti a entrare col 22, non voleva restare col cerino in mano, come hai detto giustamente tu. E quindi questi tre elementi sostanzialmente hanno creato una sorta di impasse che Atlantia ha deciso di risolvere ieri, decidendo sostanzialmente di avviare un percorso completamente diverso. Quindi la vendita to cure al miglior offerente dell'88% di, sì, Autostrade, o in alternativa la scissione proporzionale di Autostrade, quindi con il debutto direttamente in borsa della società, anche in questo caso sempre fino all'88%. Però allora un'altra domanda, Laura, i dubbi di Cassa Depositi e Prestiti tendenzialmente dovrebbero essere gli stessi di qualsiasi altro compratore, non credo che chi andrà a comprare potrà non richiedere la manleva o altre garanzie, Quindi come se ne può uscire? Questo è il discorso. Questo è sostanzialmente l'ultimo interrogativo che resta. Nel momento in cui però tu avvii un percorso di beauty contest, cioè di gara internazionale, in realtà il focus si sposta più sul prezzo che sulle altre condizioni. Diventa quasi una gara, non dico una gara al rialzo, però il tema centrale è la valorizzazione dell'asset. Sì. Poi le condizioni è una declinazione successiva. Concordo con te che in molti, che siano investitori italiani o che siano investitori esteri, qualche tipo di garanzia l'andranno a richiedere. Bisogna vedere come verrà poi gestita nell'ambito di una gara internazionale. Potrebbe essere diverso il caso della scissione proporzionale. A quel punto tu ti limiti ad attribuire a ciascun azionista di Atlantia un'azione di ASPI, quindi la società arriva in borsa così com'è e gli azionisti di ASPI diventano gli azionisti attuali di Atlantia. Certo. Quindi in questo caso è differente il percorso. E gli azionisti di ASPI, se non ti metto in difficoltà, in che percentuali sono? Allora, al momento attuale ASPI è controllato all'88% da Atlantia e un certo. 12% da altri investitori stranieri. Atlantia a sua volta è controllata da circa il 30% di edizione, che significa che banalmente con la scissione avrai un'ASPI quotata in borsa con edizione azionista diretto con il 30,6%, quindi con i Benetton azionisti diretti con quella quota. I Benetton oggi stesso hanno tuttavia dichiarato che quel 30,6% di cui eventualmente entreranno in possesso nel caso in cui si scegliesse la strada della scissione verrà ceduto sul mercato tempo massimo 18 mesi. Certo, ti ho fatto questa domanda proprio perché qui volevo andare a parare, nel senso che alla fine se l'obiettivo iniziale, anche politico, era quello di estromettere i Benetton in tempi rapidi dalle concessioni autostradali, ecco, il percorso diventa molto lungo nonostante le garanzie date dai Benetton. Allora, posso dire che sono percorsi lunghi in qualsiasi situazione, nel senso che sono proprio i tempi tecnici che lo richiedono. Nel caso di una gara internazionale tu devi ipotizzare l'avvio della gara, devi dare tempo a, come dire, potenziali soggetti interessati che manifestano l'interesse di fare la due diligence, una volta fatto la due diligence di preparare un'offerta, a quel punto c'è una short list con un numero limitato di candidati e poi a quel punto vai alla trattativa in esclusiva con quello che scegli, quindi per definizione queste sono procedure che richiedono tempi dilatati. Certo. È evidente che magari la trattativa diretta con cassa per l'ingresso di cassa in aumento di capitale forse si sarebbe potuta portare a casa prima, quindi magari cassa sarebbe potuta entrare già in autunno. Sarebbe stato un percorso più semplice, certo. Sarebbe stato un percorso più semplice che si è però scontrato con un elemento sostanziale. L'accordo tra le parti era stato deciso a un altro tavolo, nel senso che era un accordo scritto a livello politico, a livello governativo, che poi doveva essere declinato tra due soggetti diversi, cioè tra Cassa Depositi e Prestiti e un'azienda privata, quella che è certo. Che peraltro quotata in borsa. Ecco Laura, abbiamo circa un minuto da adesso. Qualora invece si optasse per la vendita, questo asset ha un'appetibilità di mercato? Ci sono dei soggetti che a livello internazionale possono essere interessati? Allora, indubbiamente sì, nel senso che già in questa prima fase in cui si ipotizzava poi una successiva IPO o comunque la cessione di un 22% a investitori istituzionali erano diversi i soggetti che si sono fatti avanti sia italiani sia stranieri, tra cui Blackstone, insomma, quindi comunque sì. Un appetito lo genera sicuramente, fondamentale per capire però quanto sarà l'appetito che potrà generare è la riscrittura della convenzione, perché il nuovo atto di concessione, che è quello che stanno definendo al Ministero delle Infrastrutture, almeno a grandi linee oggi, è quello che poi dà un valore all'azienda, è quella che sulla base degli investimenti, sulla base delle tariffe, certo. Identifica la redditività. E quindi una volta che tu hai l'atto di concessione, quindi sai quale sarà la redditività prospettica del tuo asset, puoi anche capire quanto è realmente appetibile quell'asset. Indubbiamente l'obbligo di fare investimenti o eventuali tariffe più o meno elevate rispetto a quelle attuali possono sicuramente rendere più o meno appetibile l'ingresso nelle concessioni. Grazie a Laura Galvagni per questo tuo contributo. Laura Galvagni del Sole 24 Ore, noi siamo in chiusura, allora ringrazio Valeria Bernardi in regia, Maria Sole Lisciandro in assistenza al programma, io sono Vincenzo Miglietta, vi saluto e ci sentiamo domani per un'altra puntata di Focus Economia.